proprio poi a Cristina, Claudio, Marco e tutti gli altri tutti arrivano a prendere scuola perché... Roger, ti sei avuto. Senti Riccardo, vedi un po' se c'è qualche altro che vuole entrare, magari qualcuno che non mi sente e quindi magari l'amico di muro, se non erro. Beh, vedi un po' se c'è qualche altro, cambia. Ok, sì, avevo sentito picchiare sotto all'inizio. Comunque Claudio, sì, parlare anche con noi. Noi abbiamo fatto, vabbè, quando sarà, si metterà davanti al matricola mia, abbiamo fatto 10 con la Spagna. Ho fatto tanti 10 con questa antenna, perché sto andando bene, funziona benissimo. Ho fatto soprattutto Spagna e Portogallo, e poi Regno Unito, questi posti. Roger, ricevuto, purtroppo ci sono problemi sia tecnici che problemi burocratici. Comunque lasciamo perdere che magari cercherò di risolverli. Comunque se c'è qualche altro che vuole entrare, magari dillo tu che a me magari non mi sentono, cambia. Sono rientrato io. Va bene, allora stavamo parlando con Riccardo di scuola e altre cose. Non stavo dicendo di far girare il mic a qualcuno che magari a me non mi riceve. Sì, vediamo se c'è Claudio da Muro, riprenditi il mic e poi lasciamo un attimo di bianco e vediamo se nel frattempo qualcuno vuole entrare. Avanti Claudio. Sto usando un palmare originale della radio, del Colt Black Shadow. Ma anch'io. Ma Riccardino, quanto ti arriva per curiosità? Sento le accese, che c'è un caldo a morire. Solo se pensavo ti arrivare, oh, vabbè dai, diciamo un po' più nascosto per te. No, io grazie a Dio già c'ho una bella posizione, ascolto tutti bene, forte e chiaro, tutti sono oltre 9, tu sei 9 più 10, 9 più 15, coso, Nicola, 9 e 20, Riccardino, tutti quanti, tutti buoni. Un po' penalizzato la zona dopo Castelsardo, di lì io sono un po' critico, però tutte le altre zone, Alghero, alla grande, poi tutta la zona di dietro Muro, Zossi, Ittiri, tutti quelli arrivano a bomba, poi Perfuga, Zoschi, quelli arrivo, li faccio a bomboletta io. Un pochettino, come ripeto, da Castelsardo in poi di lì ho un po' di difficoltà, sono completamente chiuso da quelle collinette, magari quelli dal monte riescono ad andare meglio, si incanala meglio il segnale. Comunque Riccardino, a te ti arriva perfetto, Nicola? Sì, diciamo molto meglio delle altre volte, lo sento anche forte, lo sento bene. Da quando ha cambiato l'antenna lo sento benissimo, se poi mette il mic proprio vicino alla bocca allora lì lo sento fortissimo. Greco, avanti. Ciao Roberto, sempre Fabrizio. Ascolta, adesso questa radio è sempre satura, vero? Sì, sì, troppo compressa. Il segnale è ottimo, non vedi, ma a casa tua sì. Sì, sto facendo delle prove. Guarda adesso se è cambiato qualcosa, per esempio. Niente, sei completamente chiuso, mi ti sto guardando su esatto rispetto, a parte l'orecchio, ti sto ascoltando, ti mancano tutte le frequenze acute, cioè solo bassi appena di me. Sì, volevo dire, adesso da guarda, questo passaggio qua, a questo passaggio qua, secondo te è cambiato qualcosa? Niente, quasi niente. Ma prima tu a me mi senti? Sì, perfettamente, Riccardino. Non sei uscito di radio, Fabri. Perfettamente, Riccardino. Sei completamente saturo adesso. Riccardi ti ascolta perfettamente, Fabrizio Avuglia. C'ha una postazione anche lui che non scherza. Già lo so. Allora, devo controllare, non lo so. Non so cosa sta succedendo, non ho idea. Va bene, non ho idea. Però voglio provare anche a cambiare microfono. Ah, secondo me il problema può essere il microfono. Ma che microfono è, per curiosità, Fabrizio? Uno standard. Ma non è amplificato? No, da palmo, è il suo, non lo so. Strano. Perché sembra che... Ma si è attaccato qualcosa? C'è amplificato? No, a controllare. Il problema è che è saturo, dice che è saturo. Però io non riesco a capire cos'è. Cioè, arrivando così diventa un problema, anche perché questa è così, se io abbasso così non succede niente, sto facendo la legge ma non succede niente, ovvero. Ma che non sia qualche la capsula microfonica magari partita, magari fermata tanto tempo, si è incollata che magari non riesce a vibrare. Non lo so, la verità, no, non credo, ma non lo so. Lì ci hanno fermato anche un altro microfono, la potenza si è giusta, l'ero regolata, isofrequenza. Però per il resto devo controllare. Se c'è un altro microfono, magari fa una prova, magari si toglie il dubbio che magari c'è proprio il microfono. Ok, io adesso direi di vedere se è rientrato Antonello Barracuda, che voleva cambiare radio, idem doppio rumo. Prima Barracuda, se no puoi riprendere il mic e Claudio Damuros. Vai Claudio, tocca a te. Ok, quindi Nicola, tu neanche a Peruzzi non l'ascolti, come si chiama? Claudio. Nicola sarebbe Lupo Grigio, la stessa cosa, la stessa persona. Ok, vediamo se il doppio rumo è rientrato. Ma forse dovrà andare a portare il cane, come non detto. Riccardi, prenditelo tu il mic. Scusate, posso? Assolutamente, vai. Scusami, volevo sapere se l'amico Fabrizio mi copia, cazzo. Sì, senza nessun problema. Bene, bene, grazie. Allora rimetto il mic a Proventuro, cambio. Ok, grazie Nicola. Va bene. Comunque, non so come verrà questo incendio, perché prima non si sentiva, non sta vincendo mai il progetto di radio. Sto controllando l'apparecchio, un apparecchio che mi hanno dato a controllare, adesso però lo mollo lì che voglio provare a collegare quel microfono che mi avete dato, un attimino, magari ci sentiamo dopo. Perché è tutto scollegato, ho visto, anche c'è tutti i fili, non c'è un filo collegato, anche il potenziometro, tutto quanto, devo controllare. Anch'io c'ho un vintage, adesso non ricordo chi è stato nella 27 a dirmi che me l'avrebbe controllato, io ho un Intec 500S se non sbaglio, ma non ricordo chi è stato che mi ha detto che me l'ha controllato. Non lo so, qua gli unici che ci mettono male, il competente, l'artista è Fabrizio, poi qualche volta sento che Antonello Pompugno qualche cosa fa anche lui. Brecker, Catenati. Ogni voi, chi è questo che sta per potenza? No, sono io? Già sei tu, Giulio, che sai cos'è questa cosa? Vabbè dai, io sono entrato per salutarvi, stavo seguendo il telegiornale, 4 contagi in Sardegna e nessun decesso per il coronavirus, 2 a Sassari, 1 a Nuoro e 1 a Cagliari. Va bene dai, io vi saluto e vi lascio al vostro divertimento. Ciao Roberto, Fabrizio se mi stai ascoltando, sicuramente sì, Nicola, Robertino, poi qualche altro che c'è, non lo so. Vabbè, saluto a tutti, chiudo, ascolto il finale e poi chiudo. Vai Roberto. Ogni volta ti confonde, Riccardino, Roberto, se l'hai fatto un incontro tra Riccardo e Roberto. Vabbè Giulio, già hai ben sentito. Allora, lo sai cos'è il problema? Che ero con il volume è un po' più alto, perché erano tutti con radio normali. C'è entrato due cose, cos'è questa cosa? Di colpo mi hai svegliato, dai. Ben sentito Giulio, dai, ci sentiamo alle prossime, buona carica e buon tutto. Ok, vai Riccardo per Giulio e poi Nicola e Fabrizio. Ok, ciao Giulio, ben ascoltato. Ma lo riprendo io il mic, grazie Giulio per il collegamento, stasera è andato bene, rilancio il mic, cambio. Claudio Di Muro, ciao. Ciao Giulio, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao Antonello, ciao a tutti, ciao. Sì, oggi è andata bene, Nicola. Sì, oggi ti ho sentito, con le cuffie ma ti ho sentito. Saluto a tutti, ciao Fabrizio se mi stai ascoltando, ma suppongo di sì. Ho messo l'MB più 4 sul K. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti, dai, ciao. Ascolta, ma chiedo a Roberto, ma che cavolo di messo male a questo microfono? Cioè praticamente è smantellato, mancano condensatori, manca un po' di roba in questo circuito, manca un condensatore, vedo, manca un sacco di roba. Chi è che gli ha messo mano? Allora io l'ho ricevuto, me l'ha portato, come si chiama, il padre di Riccardo, Sergio, e per confrontare a lui mi ha detto questo ci sono dei fili staccati. L'ho aperto, ho detto vediamo se è uguale al Tarn più 3 mio, completamente diverso, solo le dimensioni sono uguali, però è completamente un circuito diverso, manca il coso della batteria, l'alimentazione, è staccato il potenziometro. Per me l'hanno messo diretto senza niente, solo a capsula senza nulla. Me l'ha portato così, non so chi ci abbia messo le mani, questo chiediamo a Riccardo. Riccardo, chi ci ha messo le mani in quel microfono? Non lo sappiamo, l'abbiamo preso dai. Ah, te me l'hanno venduto? Non lo so, era uno stesso, praticamente di attrezzatura e con quello che Babbo ha iniziato, infatti molta roba era ma tieni il microfono attaccato alla bocca così ti sentiamo bene, bello forte e chiaro. Fabri, hai capito? Io non lo so, tanto meno lo sanno loro. L'estetica della struttura è bella, è in ordine, però dentro è un pianto, non vuoi visto. Su internet sono riuscito a scaricare lo schema elettrico, sono due schemi, ci sono anche collegamenti, però come hai detto tu dobbiamo verificare se mancano dei componenti. Non so, io ci provo, ma praticamente da ricostruire completamente, ci mancano tutti i fili di collegamenti, ci mancano potenziometri, ci mancano interruttorini, lì c'è un interruttore, che non mi ricordo che cavolo faccio, ma c'è un interruttore, non so, è un po' messo male. Come l'interruttore, è quello che blocca il PTT, stai dicendo? No, internamente, un interruttore che non mi ricordo a cosa serviva, ma c'è un interruttore, devo guardarmi lo schema, devo guardare. Non lo so. Non l'ho visto questo interruttore, e guardando così i componenti a occhio sembrava c'erano tutti, e c'è solo il discorso dell'alimentazione, poi hanno tagliato tutti i fili, le lamelle, non so se quello ne abbia due o tre, perché il Tana più 3 ne ha tre di lamelle di comando del PTT, quello ne ha due, non vorrei che Maria hanno tolto anche una lamella. Va per rilassare, non per perdere. Ci provo, una do un'occhiata, poi ti faccio sapere, qui è completamente, aspetta, sto dando un'occhiata, il circuito c'è più o meno tutto, ma hanno completamente scollegato completamente, vai, vabbè, vediamo un attimino, va. E manca anche un interruttorino, vabbè, vediamo. Va. A quello che c'è il foro sotto, nella base del microfono, stai dicendo Fabri? E un po' di roba manca, te lasciami lavorare. Ok, ciao Antonello Pompugno, anche a te, ti rilancio il mic che poi farai girare per Riccardo e chi c'era poi? Claudio Damuros. Aspetta un attimo che devo fare una lavoretta. Ora, ok. Adesso siamo a posto, se no uscivo sacco, sono compagno. Andà bene. Cazzo l'FM500S, ne ho uno di qui io. Ma sono tutto modificato, già ne pigliano un po' quel colpi con i barchi. Aspetta, non ho capito poi se c'è Nicola, è andato via o ci sono ancora Nicola? No, ci sono ancora, Roberto. Ok, facciamo riprendere anche a Claudio Muro su che è in parcheggio, datemi 5 minuti che mi sto ordinando la pizza, dai. Riprendi il mic Claudio e poi farai girare agli altri. Ok, Roberto, ti facciamo venire a fame. Vabbè che io dobbiamo fare la pizza lo stesso, ma noi non la ordiniamo, la facciamo in casa. Io sto un po' sovrastando buona, invece devo mangiare quella di casa. Ma è migliore quella fatta in casa, senti a me. Lo so che migliore quella fatta in casa, visto, però non abbiamo possiamo prendere le figlie un po' sardina stasera. Va bene, mangiabile lo stesso. Bene, rilancio il mic. C'è altro? Attenzione sul canale 10, attenzione, chi è rimasto? Interrogativo. Aspetta, Nicola. Sì, dimmi, chi sei? Sì, Alessio, ma quelle FM500S che difetto ti fa? No, allora, me lo hanno regalato, però non mi hanno dato né il microfono e né il filo dell'alimentazione, poi probabilmente l'autoparlante che non va. Io adesso non mi ricordo chi è stato in frequente, che mi ha detto che ce l'aveva e me l'avrebbe controllato, capito? Ah, capito. Sì, allora c'è una pesseria, ma trovare. Se c'hai. Vabbè, ci vuole lo spinotto. Ma sta prendere uno spinotto di computer. Capito? Vado a te, c'è un filo dietro e è a posto. Ah no, aspetta, no, sto sbagliando io, perché se non c'è l'attacco del coso. C'è lo spinotto a due, è un casino quello. Bisogna fare l'attacco diretto, bisogna farlo. Dopodiché, in pratica, il microfono, mi limiti il microfono normale, anche di 548 x, va bene lo stesso. Poi la colonnina già ne ho, colonnina, se ne vuoi te le prendi, ce ne ho qua a casa, c'ho coperti con colonnina e tutto. No, ripeto, almeno chi me l'ha regalato ha detto che l'ultima volta funzionava, però ripeto, non mi ha dato né il microfono, ma il microfono al limite vado ad acquistare e lo procuro. però non so dietro come si fa l'alimentazione, capito? In alimentazione bisogna togliere quello spinottino che c'è dietro, perché tanto lo trovi lo spinato dietro dell'FM500S. Mettere i due capi, uno rosso, uno nero, un pochettino grossettini, saldaglia all'interno ed è fatta. E dopo ci metti due bananine, una rossa e una nera, da fusare. Ti conferma, io lo vorrei naturalmente usare in casa, non lo posso mettere in macchina perché non ha il timbro CE dietro. Sì, basta andare ai cinesi, fregare qualche cosa. Ma c'è poca roba di mancata, c'è un filo adesivo dietro e sei a posto. Sì, va bene. No. Non so neanche se... Non immagini. Comunque, io ci provo a rimetterlo un attimino a posto e dico, ma tu l'hai avuto questo CB cambio? Ce l'ho qua a casa, ti ho detto, ce l'ho uguale. Ce l'ho qua a casa con il CB più 4 ottoni. Figurati. E c'ho anche il microfono normale suo. Proprio originale, originale. Ma tu lo stai usando? No, è buttato qua a casa, la verità, la FM500S che ho io. È buttato qua a casa, è modificato di canale, modificato. Ne ha 34 sotto e 34 normali. Ah, bene, bene, bene, bene. E adesso provo a per una curiosità mia, provo a rimettere a posto questo. Ma ripeto, me lo hanno regalato... è molto, non so quanti anni possa avere, secondo te quanti anni hanno questi apparati? Sì, sono vecchi, per apparecchi, capito? Ma me l'ha regalato, Marco me l'ha regalato, giusto Marco? Sì, me l'ha regalato tu, che ci facendo essere. Pure quello. Ecco perché non l'ho più visto in casa. Ehi, mi avevi dato tu l'FM500S, io l'avevo modificato e ci ho messo 12 pipi patottoni, ci ho messo e il microfono amplificato, l'F10 c'è. Adesso tra due minuti te lo aggancio, così te lo faccio sentire, sono apparecchio che non lo uso, è buttato in camera mia e dalla parte, figurati. Non me lo ricordavo, dai. Ciao Nicola. Sono entrato io. Sì, ciao Marco. Ciao Roberto. Ciao Marco. Antonio, una roba. Dimmi. Quel baracchino che stava facendo funzionare coso? Kawasaki, Torino Kawasaki, quello Wagner che lo fa uguale la Roadster, di chi è? Di Stefano Wagner. Ma dice che l'ha solo provato, non gli piaceva, ma c'aveva problemi perché col baracchino. Ha problemi sull'audio, hai capito? E siccome l'ho trovato, sono riuscito a trovare lo schema elettrico e non posso andare a fare una riparazione così senza sapere chi è il finale, chi è dell'audio, eccetera, eccetera. Quindi era un casino, non si capiva nulla, hai capito? Però era parecchio vecchio, non lo conosco, è stato magari un apparato che io avessi avuto parecchio tempo prima, conoscendo mi sei arrangiato, ma non è che posso mettermi a riparare così col tester a uscire di gaffo, capito? Vabbè, comunque stasera sono stato pigliando Fabio Master, se lo ripara lui, se lo ripara a casa sua, è riuscito a trovare lo schema e stasera me la porta, così glielo. Una domanda, scusate il monopolio, cosa serve quel monopolone grande che appare una specie di cosa graduata in mezzo? Per centrare la banda laterale quella. Ah, bello, bello. E quanto l'avete venduto per curiosità, se si può dire? 400 euro. Bello, mi sarebbe interessato perché è bello esteticamente, è proprio un bello apparecchio, anche se magari non funzionava, però mi piace, perché io lo conoscevo, marchiato Roadster quell'apparecchio lì, questo Wagner non lo conoscevo, quello lo fanno in Svizzera quell'apparato. Costa 550. Che cosa? Il 550 era Roadster, è uguale. Ah, mi ciao Fabio, infatti colui che stava dicendo lo faceva, me lo facevano però chiaro, anziché dorato, marchiato Roadster, anziché nero come il questo della Wagner. Il problema è che Fabri la Svizzera noi al 20 FM. Poi c'era la versione UK che non aveva la M, un altro pasticcio, e perciò il cambio delle medie frequenze eccetera sono tutti uguali sulla stessa scheda, però hanno delle caratteristiche diverse, dei componenti diversi, capito? Un pasticcio, è mezzo pasticcio. Comunque c'era tutti, sentito che stavate parlando di questo apparato e siccome c'ho la cuina in bocca ancora e niente, vi saluto, c'è e ci sentiamo dopo. Ciao Fabio, ben sentito. Ok, vai Nicola e poi Ritardino e Claudio Lamuro. Bene, allora riprendo io solo per salutarvi, perché la mia 50 mi ha chiamato, adesso scendi in maniera imperativa. Anche adesso puoi scendere, scendi, è probabilmente ora di cena. Saluto a tutti e ringrazio per queste occasioni. Ciao, grazie anche a te, dai, è sempre un piacere ascoltarti. Nicola, buona cena, buon tutto e buona giornata per domani se non dovessimo risentirci. Ok, vai Muros per come si chiama? Per Nicola. Io vabbè sono solamente in ascolto, se serve qualche controllo a Fabrizio. Ok, non c'è problema. Vai Riccardo per cosa? Per Nicola. Ma chi c'è Fabio? C'è? È entrato un attimino, però forse è andato a mangiare, capito così? Vabbè, saluto a tutti comunque, sono in ascolto. Ehi a Claudio, Riccardo ci sei? Riccardo rimettiamo 3 punti di penalizzazione perché già 2 volte lo rilanciamo, anzi 3 e 3 volte sparisce. Aspetta che attacco l'FM500 così mi dai il controllo, adesso non fa pare che lo tocco. Questo cos'è Antonello? Questo è la 87, però sto pompando con BV131 c'ho 130 watt. Ma quello che ti ha ascoltato l'altro giorno, ti sta ascoltando perfetto, l'altro giorno che baracchino era? L'altro giorno stavo usando quello là, solo che faceva schifo, solo... C'è un trasmissore che esce bene, in eccezione dovevo usare le colonnine del computer, capito? Perché era l'unico modo, mi faceva una specie di... C'è presente quando tu hai un amplificatore da audio, metti a manettone lo stesso identico difetto, che senti gracchiare la colonnina. Ho capito, quindi il problema ce l'ha in ricezione, non in trasmissione con l'apparato. Esatto, c'era solo in ricezione, sì. Una specie di ritorno, Avevoci qualche festivo, qualche cosa saltore, capito? O magari un filare audio, è vecchio lì come baracchino, è molto vecchio. Devi pensare che ha più di 20 anni, è stato usato pochissimo, abbandonato da una parte, capito? Oh, vabbè, già c'era già Fabio, adesso via lui. Dell'87 quell'apparato lì, e poi non so se era quando l'hanno fatto, ma l'altro giorno io ti ho ascoltato perfettamente, altrimenti ho detto oggi ti sento perfetto, che cosa ci avevi? Ieri stavo dando il 3009, il Connex 4000 in realtà, ieri, è stato da casa di Giovanna. Quando stai modulando? No, non eri allora a casa di Giovanna, quando ti ho sentito io eri il segnale molto più forte. Comunque io di solito uso sempre l'87 che sto usando. Esce benissimo questo, già lo sai. Ho diminuito il microfono, perché guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, quando andate così si sente tutto l'abulotto che c'è intorno e poi non mi piace più, ti roviniamo la modulazione. Quando sei un po' più basso va benissimo. Vabbè, già lo sai che c'ho anche l'altro di apparecchi. Aspetta che attacco l'SM500S, così lo faccio viaggiare un po'. Ok, Claudio Muros, riprenditi il mic. È un piacere anche da parte mia. Ci sentiamo, saluta tutti a casa, buon corretti, buona cena, anche io sto aspettando il portino della pizza, metto una mezz'oretta, per cui anche io in qualunque momento, nell'arco di mezz'ora, posso interrompere. Dai. Ok, chi è arrivato? Qua c'è Riccardino, vediamo se c'è ancora, se no riprende Antonella. Ci sono, scusate, comunque saluto a Muros. Ciao Claudio, benvenuto e alle persone. Avanti, cambio. Antonello riprende il mic per i saluti a Claudio Lamuro. Vabbè, sta cambiando. Riccardi c'è 3 punti di penalità, lo sai. Di penalità? Tu quando vai via devi avvisare, a meno che non ci sono imminenti motivi. Già 3 volte ti ho rilanciato nell'arco di un'oretta e 3 volte non rispondevi. E non va bene. Quando ti trovo ti tiro le orecchie. Sto scherzando naturalmente, dai. Ok, avanti Marco, se c'è ancora Marco Fondo. Sto dormendo. Cacchio. Questa c'è la notte, cacchio, il giustiziere della notte, Marco Condor. Io forse mi viene male a dire cose, nominativi, io sono abituato a chiamare per nome, molte volte mi impappino perché non riesco a dire il coso. Il nominativo. Così Antonello lo chiamo sempre Antonello, a Muros lo chiamo Claudio, se no a Riccardi lo chiamo Riccardo. Già molte volte non mi ricordo neanche che si chiama Alfa 21. Non sapevi che Marco Condor Condor e un pipistrello. Lui adesso dorme, poi entra in radio dopo cena e si ritira la mattina alle 6, capito? È un pipistrello. Ma non è pipistrello, io l'ho capito, lui c'ha il fuso orario della costa ovest degli Stati Uniti, c'ha 8 ore di differenza, quando noi stiamo parlando che è giorno, a casa sua è notte, per cui c'è il fuso orario diverso, e chi sono il problema? Sì, ma se tu accendi il baracchino a mezzanotte, mi sta parlando con quell'altro cuoco umano del suo amico Antonello Pomponio, senza fare nomi, capito? E stanno tutta notte parlando. E durante il giorno dorme Marco, come adesso, così è male. Tutta la notte no, guarda, abbiamo raggiunto le 2:30 di notte, in punto, e dobbiamo passare il primato. Giovanna aveva detto che era disposta a rimanere fino alle 5 di mattina, ma in realtà poi non ce la fa, non ce la farebbe, non può competere. Sì, ma di probabilità di cosa, io vi sento, cosa pensi, non vi sento, di cosa avrai detto, di nulla. L'intento era riuscire a passare l'ora. No, vai, siete tre cuocuomani, tutte e tre. Tre cuocuomani siete, per carità. Va bene, va, io vi saluto, vi stimo e vi ammiro. A tutti, arrivederci e buon viaggio, a domani, ciao. Vi stiro, cosa hai detto? vi stiro a tutti, vi stiro e vi ammiro, come te, Capitan Ventosa. Vado a vedermi un po' di TV e sono entrato adesso nella mia passeggiatina e spengo tutto, ok? C'è Fabrizio Solventi, rimango lì in ascolto, se ha bisogno di qualche controllo, e ribebbo. Ciao. Ciao Flavia, ci sentiamo, va Riccardo. Ok, ciao Flavio, e tu sei bene, hai perso il tuo diciamo, per fare, Aspetta Riccardo, ero un po' distratto, non ho capito quello che hai detto. E mettiti il microfono vicino, che lo stavo girando, facendo un'altra roba, non ho capito. Qua siamo in un ranch dove ci sono animali, mi stanno sempre chiamando, non siamo come in appartamento. Non capisco, ci sono animali che ti stanno sempre chiamando. Ma chi? A casa tu? A casa mia mi stanno sempre chiamando da una parte e dall'altra, per chiamare i cani, pappagalli, cricchetti, cavalli, e sono come in appartamento. Ah, ho capito, quindi c'hai la cosa, tu l'arca di Noè e tu c'hai, già ci vengo a visitarti. E pappagalli pure c'hai? Sì, pure i pappagalli. Vabbè, parlano, dicono qualcosa, se no li facciamo parlare al baracchino. Sì, parlano. No, fate scherzi, dicono qualche cosa. Sì, parlano. Cosa dicono? Riccardino, che parola dicono? Chiamano a me e poi dicono i loro nomi. Ma così a comando o così quando ne hanno voglia? Quando gli passa. Ah, così. Sì, bello indiano come la mia. Come sto scendo di radio con l'FM500S? Guarda un po'. Abbassa un poco, già stai uscendo bene, ma sei un bravo. Ma che sto pompando? Sono con il BV500 acceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, attaccato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, staccato. Microfono cos'è invece il suo? Questo è l'F10. F10? Sì, all'F10, perché bene va un mondo, ho il cupo com'è? Già sta andando bene, F10 non lo conosco, chi lo fa? Alan F10, da Midland. Ah no, ho capito, sì, sì. 30 anni fa. Siete leggenti qui, Marco, sì. Ma l'F10, anche quello ti avevo dato. No, quello ci avevo già da prima. Sì, certo. No, adesso sono l'apparecchio con microfono normale. Mi ha virato. Non l'ho quasi mai usato, perché ce l'ho qua a casa, ma messo da una parte, davvero, e basta. Avevo anche modificato addirittura. C'era 34 canali sotto. E c'è anche l'altra modifica che è stata fatta, quella del PLL, per avere il canale 40 e non mi ricordo cosa. Ah, io ce l'avevo già al 40, dal 30 al 39 più il 40. C'era già una parziale modifica lì. Aspetta un attimo. Chi sono qui? Pipi. LGP della Intec, quello RB4, 4 ottoni, e non lo fanno più. E chi è questo? Una canzone, non so se sia coso, come si chiama quello nero, quel cantante anni 60, non mi so bene il nome. Erebbe la fonte, il Caribe al disco show. Mi sa che è lui. Ne aveva fatto poco di successo quella canzone. sembrano, all'inizio sembrano quelle piantagioni, ma quelle canzoni delle piantagioni ai tempi dei sudisti. No, invece mi ricordano a me quelle isole tropicali, Caribiano, infatti isole tropicali dove stavano tutti con quelle, le donne con quelle cose di fiori in testa, con le gonnelline, con le tipo stuoie o cose così. A Pomponio piace, mi senti, sì. Ti piace la banana, Tonetti? Ecco, siamo a piri, piri, piri, piri, con il bip. Ma ti piace, a te piace la musica? Eh? La FM500S. L'unico che è rimasto è... Ah, ce l'ho con le cose, nel 2009 di Giovanna, l'altro Intec. Ma com'è sei attaccato, Antonio? Che bisogno c'è? Arrivi a 9,60 qua. Per trovare l'ideale non c'è che faccia rifetto, capito? L'avevo sistemato e quindi lo sto provando. Ti vai dallo al padrone e lo voglio provare. Ma a me mi passa Antonello attaccato, Marco. Fate la prova, io riprendete ensemble, tutte e due. Ah, io parlo. Ora coma bianca, passa Roberto di voce. Ogni voce che c'è. Da Riccardino che passa invece? Riccardo di nuovo in punizione, mi è andato a dare a mangiare i pappagalli. Riccardi! Ma non ci hai sentito? Chi passava tra me e Antonello? Tra te e Antonello? No, tu! Non ho capito, Non mi provocate, se no faccio danno. Mi ne ha futtato le potenze, non me ne è mai fregato niente. Perché non mi sono mancati le possibilità di attaccare cose grosse, ma non me ne ha futti nulla. C'è un coso in camera, Robert. Il bivolumine 1 è meglio a me capatreccio, capito? Devo sistemarlo. Quando attacco quello la prossima settimana faccio vedere, la prima cambio cavolo, sai che piglio fuoco per sicurezza. E poi lo provo. Ma devi cambiare anche antenna, K3 quanto sa? Un migliaio di watt, quanto sa? Ma non è. Ma K3 di valvole, parli o di che cosa? K3 di valvole, 600 li tira fuori, non posso quello di 58 più totale, 600 watt che mi ritorna tutto quanto indietro, capito? Quindi no. Già, mi porto lo spettore di RG213 cosa? Fabio e facciamo una prova. Capito, fa questo palpetto, aggancio, tolgo il piede del 24 che si aggancio del regime 213 e poi facciamo la prova. Così arrostisci qualche pizzone che c'è sotto. No, a me mi devono portare una cosa, un apparecchio e un amplificatore di una radio privata, però per altre bande, a me non mi interessa, però siccome lo stanno dismettendo, 350 watt effettivi, però quello può andare bene per le V. 350 watt effettivi, ma ne dà 500 se gli dai un po' più di pilotaggio. Se li trasformarlo e utilizzarlo nelle V, a me non serve, però detto, visto che lo stavano dismettendo, ho detto portamelo a me. Chi è? Avanti, chi è che vuole entrare? Bianco per me, scusate. Hola, ciao, ci stiamo dopo. Chi è che sta chiamando Italia? Hola, Usha Buchu, qui la sezione Paolo Falcone, regione Gesù Giuseppe Maria, telefono 234081. Dimmi. Quanto di Bibbia a me? 956, nella FM500S, la D5, la sono staccato. Ehi, aspetta che... Così. Guarda Marco, tu guarda qua che vedrai che me lo prendo a fine giugno, va. 9,40 arrivo, cosa dite? Attaccato. Un video. 9,40 arrivo. Attaccato però. Sì, attaccato, vabbè, ce ne vuole arrivare a 60, Santiago 7. Sì, ti sei abbassato, e prima eri 8 comunque. C'è una portante anche, Santiago 7, una portante, è incredibile. Comunque sto smitter è diverso dall'altro, cioè massimo con l'altro mi arrivano 9 più 30 qua, fino a 9 più 45. 9 più 45 qua me li segna Roberto, Claudio, tu attaccato, se mi pare anche Fabrizio, sì, 9:45. Va bene. Qua mi dice 9:20 adesso, è ambigua la cosa però. Cioè attaccato dovrebbe essere 9:30, non 9:40, quindi è a LED, lascia perdere, no, non è affidabile. No, no, non è già passato, lo sento, capisco perché lui è a perdere. Scusate, ve lo chiedo, ma vero, io sono l'unico di fratelli che, non per vantarmi, che ha la Blizzard. Che ha la? L'antenna studio Blizzard, è una domanda che mi sono per dire. Non saprei, Blizzard. Ah, tu non avevi la 827, Riccardo? No, lei la seconda, la 827. Blizzard, non ce l'ho presente, ma è un nuovo modello, aspetta il controllo. La riprendete, dai. Todos muertos. Sì, avviso, non era per vantarmi, era solo la per tu questa antenna, Era solo una domanda se perché non ne avevo mai visto per Sassari antenne tipo la mia, È probabile, qua Sassari sono Mantova, di solito vedi, e adesso da un po' varie persone hanno questa Energy, questa antenna di plastica Energy, che pur si muove, ogni tanto già qualcosa lo fa. Parla per te, parla per te, abusivo. Lo mio ho detto, adesso gli critico l'antenna e sciapizzo, vai, la patina che si antenna, eppure io, tanto adesso col vento si tronca pure. Quando si tronca io mi faccio la gamba e non la pago anche 5 lire. La canna da pesca, ma tu te la fai, no, falla fare da chi la sa fare, se no tu chissà cosa fai, tu capaci ci metti pure la lenza e l'amo e il mulinello. Vai, vai, che io l'ho fatta una e l'ho provata anche in orizzontale qua perché no, era troppo lunga e non ce la facevo e l'ho fatta uscire dalla finestra, là c'è pure provata. Eia, va bene. Eccola qua, Sirio Blizzard 2007, 5 ottavi, eccetera, eccetera. Vediamo il peso. Dai che mollo la portante. 9 adesso. Prova Antonè. Qua è sempre 7, ma non è che prima avevi più watt. Allora, già andava bene, dai, se mi dici che erano di più prima. Comunque, peso 6 kg di quell'antenna, ma per caso ha un anello, qua dal disegno si vede un anello che tiene i radiali, Riccardo. Il positivo è per l'effetto anti-QRM. Eia. L'ho vista, dai, sì, non ce l'avevo presente, conoscevo l'827 come ammiraglia, ma non, la Blizzard non mi tornava, forse che sia stata introdotta da poco, oppure non la conoscevo io. Dai, fate girare, dai. L'ho vista su dei forum, era un po' diffidente e ho letto che è quella superiore alla 827. Pure, cosa vuoi di più? Adesso ci vuole un bel linearone da 1 kW minimo in AM. Ok, scusate un attimo, continuate, non mi neanche un attimo che vado un attimo in corrente. Antonello Barracuda. Ma qua praticamente ho capito che hai preso quell'antenna lì, che dicevi tu, no, quella AV. E in fin dei conti come ti sei trovato? Ho capito, Riccardo ti chiamano, mi quarta penalità mi. Sì, ho detto che andavo a correre. Io che chiama però, quando parla Riccardo che chiami? Non le comprendono. Antonè, vai tu. Contando che hai cambiato casa, bella era la posizione di prima, però non c'è più. Va bene, l'importante è che ti trovi bene tu. Poi io te l'ho detto come la pensavo, no? Passare da un quarto d'onda a un quarto d'onda, io ero per andare di 5 ottavi. So che tu sei rimasto scottato già da 2 antenne verticali e quindi l'importante è che ti trovi bene tu. Quindi il guadagno c'è, mi ha detto 2 segnali in più. A Porottola ci arrivi, hai detto? E allora ce n'è d'avanzo, dai. Ascolta, è cortocircuitata quell'antenna? Bene, vediamo se c'è ancora Antonello. Pomponio, io mi devo allontanare e vado a farmi il caffè in vena. Anzi, la flebo di caffè proprio mi faccio. questa è una cosa incredibile, guarda. Poponi, riprendi. E aspetta un secondo che sto prendendo la pistola da farmi entrare qua subito. Vabbè, Antonello, impegnato. Ascolta, i lati, tu hai qualche stazione che modula attualmente ai lati dell'antenna? Cioè, dove sono puntati gli stili, diciamo, per vedere se c'è una perdita ai lati, no? Perché quella comunque una certa direttività ce l'ha, capito, Antonello? Anche se non è proprio orizzontale come dipolo. Caspita, 7 dB mi sembra eccessivo, però, per quel tipo di antenna. Come sono misurati? DBI, scritto con la I, DBI. Ma vabbè, comunque, già andava bene, dai. Poi mi è sembrato di sentire prima che i materiali sono generosamente dimensionati, no? Cioè, non è una cosa fine. Ottimo, va bene. Allora io mi assento, non so chi ci è rimasto qua. Vediamo chi viene avanti, così almeno non rimani solo. Avanti, chi c'è sul 10? Ci sono io, ma non lo sento l'amico, non so con chi stavi parlando, Marco. Io non lo sento più. Cioè, non senti Antonello Di Orsi? E questa è colpa di Natalino, mi... Oh, lì è negativa, Natalia, è molto negativa, no, non so perché. Eppure, vabbè, tu dici lui è più in alto, è più aperto, il profeta è più aperto, ha una bella visuale da lì, dal tetto. Cosa che ti dica? Stasera lo sentivo benissimo quando stava parlando con Nicola, adesso non lo sento, così sì che ti sento, io lo stesso non posso alzare nulla perché ho 3 watt dell'omologato, più di quello non posso fare. Ma va bene, anche tu di radio mi arrivi un po' bassino, ma già arrivi, così già arrivi. Vabbè, l'importante è che ci sentiamo, dai. Io ho questo omologato e devo usare solo questo, perché disturbo i televisori, devono venire anche a controllarmi sicuramente. E infatti qualcosa gli faranno adesso. Attenzione che l'omologato deve essere marcato CE come questo qua, e se no te lo sequestrano. A me mi hanno sequestrato tutto praticamente, perché non era marcato CE, anche se era omologato non era marcato CE, e mi hanno sequestrato e mani buio sulla mucca buru. Mi hanno già controllato, no? Però adesso è partita una nuova denuncia e verranno a controllarmi torna. Però va, se la prendono in gomma di vostra mamma, perché sono in regola. L'altra volta non me l'hanno toccato perché era marcato CE, avevo le mie B+4 e non mi hanno detto niente per quello. Mi hanno controllato bene, mi sono saliti qua con l'analizzatore di spettro, siccome la mia non la disturbo, ed è sul palo di quello che disturbo, ce l'hanno marce le antenne quelli, non solo di avere l'amplificatore messo male, sarà tutto rugginoso, infatti si stancheranno. Adesso quando vengono a controllare vedrai che la multa la mettono a loro, perché io sono in regola. Loro vengono, misurano, fanno quello che vogliono, e da voi andami da Eddi a dirgli di giambarsi l'antenna, perché a me mi hanno già avvertito. Io sono andato lì e gliel'ho detto, guardi, così e così. Vabbè, lei può parlare perché è in regola, se ha l'apparato omologato c'è, la concessione è pagata e tutto. Gli dica a quelli, prima che interveniamo noi, di chiamarci un tecnico e aggiustarsi l'antenna. Compreso? Praticamente riponeranno una musa a i ringhi nei riti. Canduvene, ne vedrai tu. Via vai. Hola, c'è qualcuno su 10? Vabbè. È la mia idea. Tu sì. Che si è sentato un attimo. Sono, vabbè, ma tu l'hai già mangiato la pizza? Sì, ho fatto veloce, dai. Ho fatto l'ora, velocissimo. Quindi tu ordinerai? No, già sono veloce mangiando io. Poi quando c'hai fame mangi più rapido. Ho capito. Ostra, sei ancora in preparazione, non è stato... mettendo in macchina tutti quando la mangerò. Voi la state facendo? Cosa non ho capito? Voi ve la state facendo in casa? Sì, la stiamo facendo in casa. E chi è il cuoco? Tua mamma o tuo babbo? Per la pizza mamma, babbo si intende i lavori di meccanica fuori casa, lavora tutto fuori casa, sì. Qualche volta entro in casa, ma a funzionare non funziona. Io con mia sorella qualche volta cucchiamo qualcosa, ma non funziona perché non siamo a porta per fare molto l'impatto alla pizza. Ma Natalino c'è. Sì, ok, ne approfitto, dai, per chiudere che mi guardo un po' di televisione, dai. Ci sentiamo alle prossime, ciao a tutte e due. Salutatemi Antonello quando rientra. Io per il momento QRT, ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao Natalino, ciao, ci sentiamo domani. Ciao Natale, ti ho sentito solo di sfuggito, allora, buon tutto, buona carica, tutto quello che devi fare. Alle prossime, ciao, ciao. Ok, ho salutato Natalino, è troppo forte, ho sentito anche la TV. Sono stato nel 24, figurati, ecco perché funziona bene. Gaba gaba. Adesso c'è la mania dell'MB più 4, tutti MB più 4 o più 5, i TAN li hanno disprezzati tutti. Ne ho venduto 3 di MB più 4, io, lo sai, 3 ne ho venduto. Ehi, va bene, e penso che si troppo meglio le MB più 4 che le MB più 5 perché già le ho realizzato dei studi. Devo vedere, però ormai le MB più 5 e mettetemi a 0. Le MB più 4 e più 5 sono quasi uguali, mi hanno messo solo il controllo dei tuni e buh. Però il microfono di sostanza è uguale, la capsula è precisa. Alza un po' il microfono, mettitelo vicino Riccardo, se no devo alzare troppo il volume del coso, poi quando entrano gli altri mi fanno so. Ok, ti stavo dicendo, ho bisogno di un consiglio. Se sono in condizione di aiutarti, ben volentieri. Praticamente Massimiliano mi aveva mandato quella foto di quel Turner e Cadelta e io gli avevo scritto tutto, ma me ne sono accorto che è un po' troppo roba vecchia, guardando gli anni, mi sono guardato bene nel posto e questo mi sta strillando dicendomi sono giorni che gli scrivo, cosa hai fatto tu? Dici che hai cambiato idea, ne hai trovato uno qua di un amico che se ne voleva disfare, avete fatto uno scambio e mettete una storia del genere, perché troppo l'insistenza non va più bene, secondo me bisogna stare molto attenti, soprattutto sui microfoni, sono delle cose che poi magari te lo danno, hai visto quello che c'è tu di Turner, magari te lo fanno vedere bello esteticamente, tu lo guardi bello, poi lo apri e c'è una scatola di sardine vuota. Basta solo perché gli ho portato quel microfono che adesso mi voleva aiutare, però può anche scartare, mi prendo un MP5 e poi quando capita mi prendo un Turner. Tu dilli che ne hai trovato un altro, cioè scusami se non ti ho risposto, non ho avuto tempo, gli dici ho trovato qua in città un Sider che quello si chiama Turner Sider Chic, gli dici per cui non ti interessa più a scusarlo se l'hai fatto perdere tempo. Sì, adesso glielo scrivo, comunque chi è rimasto non mi ricordo, è andato via Natalino e poi chi c'è ancora? C'è Antonello, avanti Antonello. Dimmi tutto, dimmi. No, ti ha rilanciato Riccardi. Allora Riccardi, ti sei messo la stazione come si deve adesso? Dopo tanto, meno male. Almeno ti senti in cuore di fronte qua, adesso. Vabbè, siamo di fronte in linea d'aria, Perché dal Conti, dove sei tu, siamo di fronte. Allora, adesso mi sono perché sembro una cosa seria. Ah così, vabbè comunque già va bene. Mi sono dimenticato stamattina, se me lo dicevi ti davo l'MB più 4 o più 5, così almeno ti facevi sentire meglio e non ci affatichevamo le orecchie, perché quando erano quelli con gli amplificati ti schiacciano di radio. Non ci ho pensato, se no te lo davo stamattina un amplificato, già ne ho tanti. Ok, Antonello, riprendete il mic. Cosa stai combinando, Antonello? Scusa, dopo c'erano le pizzette piccoline, quello di Rossi, sono stato a controllarle, capito? Ah, di caso bisogna che fai piazzare un PMR invece, una bella antenna V e U di stazione fissa, un bel portato di PMR, tanto c'è il computer, gli programmi, gli CP, gli dischetti, gli metti tutte le frequenze, l'IPD e PMR. E così parla anche lì. Ma tu c'hai l'antenna, quella che c'hai tu è per le V o per le U quella che c'hai? La direttiva fa V e U. Ma dove è orientata quella? Verso la Liguria, dove? No, a Monteoro l'ho puntata e basta, dove c'è il ripetitore. L'ho lasciata così come adesso. Il motore che l'avevo è... si era preparato l'anno scorso, hai capito? E quindi no, non è più attaccato. In seguito il motore così la faccio girare. Quando è cambia posizione è a me è più libero, capito? La metto più avanti, così a me la mi diverto appunto dove voglio io e a me l'ascolto. Via, ok. Riccardino, anzi facciamo un attimino di bianco, vediamo se vuole entrare sul 10, attenzione 10 che vuole entrare, nulla, riprendetelo tu il mic. Ma tuo padre perché non entra? Non è più appassionato o impegnato, Riccardo? Sta facendo sempre la voce, ma sta sempre lavorando per lì. Però qualche volta entra perché non vuole essere quando sono anche sono gente, quando sono in posto. Cioè forse c'era qualcuno che voleva entrare perché sentivo sotto di te qualche segnale tipo portante. Avanti sul 10, nulla. Ok. No, io ho messo Antonio una multibanda a 9 metri. E fa da 0 a 30, mi ha salito i segnali nelle HF da 7 a 9, e, diciamo da 27 invece è il contrario, da 9 a 7. No, io lo accetto con la discona, la regalo a Fabio, devo regalarla, e mi metto l'Exi 300, metto, a posto di quella, tanto io la discona non lo sto neanche più utilizzando, quindi a un certo punto, metterla così a guastarsi. La regala Fabio, me la, lui serve per i lavori che si fa, capito? È più tranquillo. Faccio un attimo di bianco, mangio due pizzette e poi già rientro, va? Buon appetito allora. Ok, Riccardi, quelle foto che mi hai mandato di quel tipo che sta venendo con la roba, lascia perdere. Quella radio non vale niente. Il microfono l'hai visto che è un po' cucussi. L'unica cosa interessante è quell'accordatore. Come si chiama? Rosmet accordatore della Magnum, quello è un bel apparecchio, però manca una manopola di regolazione e non vuole che sia toccato. Per cui stai prendendo delle cose e poi Jackson potrebbe andare, ma sono sempre cose che non mi fiderei. Per quelle cifre lì meglio lasciar perdere. No, ma l'accordatore forse era il Magnum, il Diamond. Quello della Magnum, la Magnum elettronica, è l'MW2000 mi sembra che si chiama. Ho fatto così quello. Invece mi sembrava un estremo, allora tra l'altro quel baracchino che ti ha fatto vedere, quell'apparecchio di lì, è un vecchio apparato HF ma di quelli proprio scaccini proprio, che se vale 150 euro è troppo, non vale niente. Ti ripeto, quel timer esteticamente è molto usato, poi mi va a vedere se l'hanno manomesso, no? Finché dici paghi tutto 200 euro, uno se le gioca 200 euro, ma quelle cifre lì neanche niente. Sì, quello è il Sommerkamp. Infatti Sommerkamp e Aesu che sono uguali, però non vale niente, è un apparato che non fai nulla tra l'altro. Infatti va bene allora. Ma io pensavo, non sapevo neanche, perché non sapevo che faceva no, magari lo puoi aprire, nel senso puoi allargarlo un pochettino, riesci a far andare il 27, ma cosa ne fai? Sono apparati vecchi, chissà che problemi c'ha. Perché stava dando praticamente un Rotmetro, un President, un Midland Alan, poi stava dando quel Magnum Diamond e poi uno Spettacino. Ma sono cose che valgono 30-40 euro, un po' di più può valere il somme, insomma il president se è efficiente ti può valere 80 euro, fai 100 euro se è fiammante, ma prendere così la scatola chiusa, il resto è mondezzina, il Tanner bisogna vedere com'è, sembra molto maltrattato così. Quello che ho sembrano tutti un po' vecchiotti, perché non ho visto annuncio che non sia più o meno così, comunque allora anche il tuo altri, io ho visto anche, non so perché, no, ma non vale niente, non ne fa niente di quella radio lì. A quel punto se vuoi fare il salto di qualità prendi qualcosa di meglio, ci butti 350 euro e ti prendi un apparecchio serio e non tieni un ferro vecchio di quelli. E ho fatto tutto, va bene, roba. Sempre con la massima attenzione, naturalmente. Se no, per iniziare ti prendi un Saturn Echo che c'ha tutto, c'ha il frequenzimetro, c'ha tutte le bande, diciamo va più che bene per avere una bella stazione base, naturalmente lo devi prendere qua in città, non prendere niente da fuori, perché il 99% di quegli apparati sono tutti manomessi, hanno un sacco di problemi, uno che ce l'ha dici fammelo provare, si prova qua in città, lo metti in stazione e si fanno tutte le prove, a quel punto ti dico sì, lo puoi prendere e lì ci puoi buttare anche 150, se è perfetto perfetto anche 200 euro, non di più, perché sennò aggiungi qualcosa e ti prendi un altro tipo di apparato, molto ma molto meglio. Buonasera. Mi nomi è Eugenio. Buonasera, buonasera a tutti. Il genio della lampada, Eugenio. Lui, e allora? Dove sei Eugenio? Ah? Dove sei? A casa. Sei più basso del solito, come mai? Oh, no, sto. Sempre io non tocco mai niente, io accendo e schiaccio e basta. Ho saltato il QRM di nuovo, no, la radio è sempre forte e chiara, però mi sembravi un po' più basso, perché eri più di 9, adesso sei poco meno di 9. Non lo so, non lo so. E devo io a provare il Galaxy Uranus. Riccardi. Sì, ok. Devo io a provare il Galaxy Uranus, con quello ti puoi divertire. Mi sono dimenticato di dare il microfono stamattina, non mi è venuto in mente, cavolo, se no ci saremmo fatti, cioè l'avevamo fatto sentire un po' più forte a Riccardo, che è fortissimo il segnale, però la radio è bassa, poi se lo tiene anche un po' lontano dalla bocca è ancora più basso. Tu dai il microfono, io le do il Galaxy Uranus, così lo sentiamo bene veramente. Ma quello quanti watt? 10 watt ci arriva o di più ne dà? Quello ha 5, è regolabile, 5 watt e poi schiacci il pulsante e te ne dà 10 o 15, non me lo ricordo. Ma tipo il Saturn Echo? No, però è normale, piccolare. Ah, è veicolare, no, perché no, non era quello che c'aveva Mario Manser, allora lui c'aveva il Buzz. No, non era Buzz, è veicolare come un baracchino normale, però il bello è che ha sintonia continua, capito? C'ha, va da 26 a 30, figurati canalità. Quello dovrebbe andare bene lui. Ecco, il QRM a 7 c'è. Ma sta piovendo a Porto Torres, ho piovuto stasera e oggi. Ha piovuto allora il pranzo, dai, più o meno. Qua a casa mia, noi anche una goccia ne ha fatto, perché in altre parti dice che ha piovuto anche abbastanza, qua niente, a zona deve essere che ha piovuto. Ma lunedì e martedì soprattutto è prevista un bel di Eva. Ah, lì punti ha piovuto, stava piovendo. No, qua niente, non ne ho visto neanche uno. Oh, ma il Galaxy Uranus è quello un po' moderno? Moderno con i tasti? Diciamo non è vecchio, sì, è un po' moderno, sì. Aspetta che lo cerco, non me lo ricordo, lo sai? No, l'avevo mai visto. È nero con una tastiera. Come avevo detto, lo sto guardando, questa è... Quello è un bel apparato, quello è un bel apparato. Riesce anche molto bene. Cacchio, il Mobicom, cosa? La copiatura del Mobicom, di quello che c'avevo io. No, non lo conosco il Mobicom, ne ho sentito parlare ma non so nemmeno come si è fatto. L'MB, MB40 della Intel, questo forse l'hanno fatto qualcosina, fammi vedere, no, ma lo smitter è uguale, forse qualche tastino diverso, perché l'ho dato a coso, a... a Giovanni Bracco gliel'ho prestato insieme a due microfoni, un M93 che esce abbastanza bene amplificato, e più il microfono solo, sì, si assomiglia un bel coso all'MB40. Roberto, stavo dicendo anch'io un mobile con il veicolare, però è questo veicolare, questo che sta dicendo lui, questo Galaxy Uranus è un veicolare, dico anch'io un mobile con il veicolare.